My father name was Elijah, and my name is Ragnar Piser. C'è il telefono di già? Ah, suoni il telefono? E ora si risponderà. Hanno smesso, suona più. Bentrovati a tutti. Questa era, cioè, c'è stato un falso inizio perché squillava il telefono. Questa era Gran Paisa come tutti i lunedì. Madonna, si è proprio iniziato proprio da scarcinati, eh. Così, un po' voce, si sa dove siamo. Comunque, insomma, la gente lo sa. Il lunedì alle 21, Gran Paisa. Con voi fino alle 22.30. (055) 73 99933 se ci volete telefonare. Duole dirvi che questa è l'ultima puntata della stagione. Comunque non strappatevi i capelli, eh? Dice ci importa un poco. Non strappatevi i capelli perché questa puntata sarà con un... con due ospiti. Leonard e Ago Numariu con noi. Più tardi in un ricco DJ set di robe loro, eccetera, eccetera. Per ora va così, questo è Tommy. Facciamo questo warm up, e ci risentiamo dopo. Stop. oggi ci si gira veloce, eh? Si gira svelti. Ci si gira svelti, si lascia un... Nemmeno ci fosse da pagare mentre di là. Sì. C'è il tassametro. Ma li faranno stasera poche? Ma dice Renzi. Oggi sei nomi di copetaglia, Renzi. Ma con questo tempo però dice allora il calcio, la finale, il calcio storico l'hanno rinviata. Infatti c'era gente molto arrabbiata, dice, cioè si è giocato anche in tempo di guerra e ci fanno giocare per l'acqua. Per due gocce. Ma però veniva giù veramente il mondo. E quindi credo la giochino domenica prossima. Comunque, a parte queste cose, Colossus è pronto di là. Fa un altri 10 minuti lui, svelti svelti, quarto d'ora, roba così. Vai veloce. Ci sentiamo fra poco. Vi dico così velocemente che è uscito oggi un nuovo beat tape di Biga che si chiama Botanic Remedies. Potete andarvelo a scaricare su biga.bandcamp.com. Se poi vi fa voglia, e direi che vi deve fa voglia, andate su www.mixcloud.com/ritmo radio show, che per chi non lo sapesse è comunque il canale dove andare a scaricarvi tutti i podcast delle puntate di Ritmo Radio Show, che è il programma del nostro fratello Pizzo da Pisa, che è in onda tutti i sabati. Ora non so se ha già concluso sinceramente con sabato scorso o sabato prossimo sarà l'ultima puntata. Comunque, se andate su www.mixcloud.com/ritmo radio show, nell'ultima puntata c'è un mix esclusivo di Biga con tutte le sue produzioni. E comunque vi ricordo biga.bandcamp.com, vi scaricate l'ultimo beat tape Botanic Remedies e vi potete anche andare a scaricare tutte le altre uscite sua. Questo è Colossus, ci sentiamo fra poco. Shift selling white shit to white chicks. Bikes with vice grips, scuffed up huffies. For the crime, do shine time, that's fucked up. I'm the type to get fucked up monthly, beat down daily, and smoke up your disability check. Sean Price, bout as real as you get. I'm no fool, I'm old school, like I'm Artist Gilmore with the sket. If you walk on my block and talk about rough, you get touched, motherfucker, cause you talk too much. Come walk with P, so you all can see how I get those spit flows to an awkward beat. Better look both ways before you cross the street. The Pirellis on the Porsche push you off your feet. Sean P, one half of the incredible rap team. Y'all niggas smoked out, incredible. Hey, y'all niggas is too old to think the way you do, and you cowards never do what you say you do. I'm in the hood running with the same crazy crew, and you ain't nice, you sound like Jay-Z too. Niggas is frontin', acting like bad boys. Y'all move in silence, we make mad noise. When it's beef in the streets, we don't try and make peace. I got killers that just blaze and they don't make peace. S dots, eyes are with the long sleeve. Ghetto bitch, fat ass with the long weave. Hey, yo, get down, lay down, everybody get on the floor. This is beef, you don't want that bar. Better warn everybody in your city or town. Let them know what, this is the shakedown. Yeah, you fucking onion head bass, motherfucker. Let's go, fucker. Stupid motherfuckers, let's rhyme. Swiss Army knife in my hand. Know this shit corny, but it can end the life of your fam. Niggas know Sean nice with the hands. Watch me punch up your face, dig in your pockets, leave you right where you stand. Got a dumb bitch that live in Japan. Black belt, sub dick, chop bricks with a hand. Arigato, Sean Price slick like El Gato. Three-piece suit in the booth, ain't shit cute. Might smack off half your smile. Go to court with a suit, smack the other half after trial. Plead the fifth, y'all niggas better plead the eighth. Don't leave your face fucked up, now your niece is rape. I'm buggin', eat pills, mushrooms, and dust. Got that nigga Sean P in the mood to bust. Sean P, the motherfucking all-time great. New York, the NC, nigga, the all-rhyme state. 5'7", 75, my born day. I reach Earth, now I'm involved in foul play. Ty Nitty, New York City, we stay right. The high life, flooded ice from Jewel Heights. The infamous mall with hood-like sense. Get up on a nigga quick, hit him up with the ice pick. Strike quick, leave your body froze. Sub-Zero, was taught to fear no, so I do so. Be your pro, flow international, rational. Matter of fact, I'm blasting you with the fully weapon. No question, first suggestion. Tap the shit in the head western. Relocation, new state, new destination. Rearranging life, on the run for vice. Make you pay the price. Kid fucked up, my mom's struck, nigga, what? Yo. We true to be snake niggas for eternity. The Mar family, murder thee if it's meant to be. Trite casualty, got the whole world after me. Catastrophe, among us, fatal tragedy. Mafiosa, murder one mind, black toaster, locoposa. Twin Glocks and two hosters, we be morphoses. Watch the feet come closer, we dash down. Nowhere to run now, don't back down. Muffled out my 4 pound, style of sound. Body bloodied on the ground, the chest full of 12 4-pound rounds. Nigga, lay down, hit your ass down now. No doubt, no doubt, son. Yo, the infamous rapping up in this, you know what I'm saying? Next up. Yeah, yeah, what up, kid? Yo, kid, yo. The chronicles of a criminal cat who hold gat and bust back at trash ass cat to scratch. Leave big holes like bitches with their legs spread hot, ready for action. Now peek my whole plot, unveil and reveal. Hazardous scale, train assassins of this rap danger feel. I feel y'all niggas ain't really keeping it real. Use that ice grill like a shell, nigga, you mail. I pick up the cat and go on a mission, fishing for the next nigga that gets caught slipping. I load the clip and stuff in my gat over my dickin'. Oh shit, here comes my nigga with the blue sink and Lincoln. He says I'm trying to come up with this cash. What's up with robbing that Mellon Bank on City Ave? I said, son, you're kinda rushing it too much. But then again, I'm trying to come up with a Lexus that's plush. And plus, I just got out for doing two. Shit is trife. If I'm cool for that, I'm doing 25 to life. He said, no, ayo, it's sweet like that. I got the place map, come on, we can hit him at dawn. Fuck it, they can kick the bucket when we gonna do this. He said tomorrow morning, but you gotta keep your lips zipped. I said don't worry about that, just hit me up. I got the mad guards in there and the figure laid on his back. Check it out, it's strictly what? Trying to come up with the cash, reach inside my ass on that ass. Cue ball, real fast, standing tall. If you wanna build a rock, I'm trying to come up with this cash, real fast. Niggas in my way, get laid on it. Yeah. Yo, yo. Yo. Vai con gli appunti. Vo con gli appunti di Mike Buongiorno. Ora faccio giusto un'entratina veloce, vai, e poi si lascia spazio a Numa. Vi faccio sentire un attimo l'EP nuovo di Rashad che uscirà il 22 luglio e che si chiama Don't Give a Fuck EP. Sono 4 tracce. Mm-hmm. Insomma, poi andate su ragnampaisa.net, domani vi beccate la playlist e ci sono tutti gli appunti del caso, come sempre. Eh? Senti che storia. Senti come te la doso. Fuck. Eccoli. Eccolo. Eccolo. Allora, siccome non siamo dei qua da qua, abbiamo promesso gli ospiti e gli ospiti vi abbiamo portato a quest'ultima puntata di Ragnar Pies. Oh, brother. Ti c'ho il microfono, Sì, sì, sì, anche tu. Allora, prima di farle andare fino alle 10:30, che poi sbaracchiamo, giusto un paio di chiacchiere con Numa Crew per sapere che bolle in pentola, se ci sono uscite, se suonate da qualche parte, anche non vicina, anche no, se suonate in Brasile, lo potete dire, bro. Sono in Brasile. E basta. Dai, prossimo anno solo in Brasile. No, stiamo lavorando su vari progetti discografici, date. C'è un bel po' di roba in pentola. Che bolle. Che bolle. Lentamente. A induzione. Coce, coce. E progetti discografici ora in arrivo su Voodoo Rebel, un'uscita di Piezo. Imminente? Imminente, però tra 2-3 settimane. Poi ci sarà un free download con Erba su tramite sito che ricordo è www.numacrew.com, che abbiamo aperto da un mesetto, fresco fresco. Poi per settembre c'è tanta roba che non anticipo, non sto a anticipare ora, però nuova etichetta, nuovo brand, varie altre robe, collaborazioni importanti con etichette italiane. Non ti sbilanci, via. Non mi sbilanci. Aspettiamo l'estate. La vecchia grattatina e gioiello e non esatto. Ti sbilanci. No, no, si fa riscaldare sulla pietra per l'estate, luglio, agosto, bello bollente, poi si vede a settembre. Vabbè, allora poi quando si ricomincia a settembre... No, poi si viene da un bel po' di date, Lapo e Ninja sono appena tornati da una doppietta in Grecia, una doppietta in Romania. International. Io ero a suonare alla festa della musica, super festa della musica a Marsiglia 3 giorni fa. Ho volato tutto e niente. Poi ora per l'estate siamo un po' nel nord Italia, Milano, Cuneo, e poi a settembre, insomma, fine agosto, Outlook. Che ci sarà da divertirsi. Roba seria. Roba seria. Ma le date sono sul sito vostro, casomai? Sì, sì, sì. Tutti gli aggiornamenti, release, date. Ora ci saranno appunto questa serie di free download anche su tramite sito. Poi tutto aggiornato sul sito, okay. Facebook e Twitter. E Facebook, ok. Quindi chi vuol vedere, andate a cercare un po' sul sito loro. Mi chiamano anche in chi questo momento. Ah, il telefono? Allora, via, non mi sembra il caso di rispondere in diretta, via. Facciamo seri. Detto ciò, io vi farei anche andare, ragazzi. Tanto sono le 21:40. Già, poi c'è da annunciare la serata di mercoledì. Che dilla. Con DubFX all'anfiteatro di Fiesole. Super serata bomba in un luogo magico. Super, sì. Speriamo nel tempo, speriamo in Renzi, speriamo... Che si spera? No, siamo il comune di Fiesole, quindi va bene. E siamo noi e DubFX con la family di DubFX, la sua ragazza Flower Fairy e il socio Cade. Penso sarà una super serata, si preannuncia bella. Una situazione good. Noi facciamo l'apertura, molto semplice. Penso l'apertura cancelli sia alle 8 la sera e poi una fine anche verso mezzanotte, penso, una roba comunque in prima serata, però vale la pena. Chiaro. E poi vabbè, chiaramente voglio dire, un saltino a Fiesole o sto caldo, no, uno ce lo fa no, doppiamente volentieri. Il luogo per si preannuncia bello. L'anfiteatro è una bomba, sì. È una bomba, il sound sarà una bomba e poi DubFX che torna a Firenze dopo un anno e mezzo, preso bene nella sua metà della terra natale che è la Toscana, quindi tutto bello. Ah, è toscano? Sì, mezzo. Okay. Australiano toscano. Quindi ce lo prendiamo a casa volentieri. Panino con l'ampredotto il giorno, esatto, e poi la sera, chiaro. Di mercoledì poi c'è nemmeno il problema del fine settimana, è tutto chiuso. Il trattamento è sempre il solito. Esatto. Vabbè, di là sono già tutti pronti. vi facciamo andare ragazzi fino in fondo, poi se c'è da dire qualcosa strada facendo si dice, se no anche no. A bestia. Va bon? Numa Crew live dentro Ragnar Paisa fino alle 22:30. Sometimes I don't. Respect la stuff I like green you. Si la sei no sin. Yeah.

questa è sempre Ragnan Paisa con voi fino alle 22:30. Numa Crew Live, Leonard Ago. idea when I beat my chest in the middle of the city. If you wanna be my guest, it's a bad man thing, so please don't bother act silly. And if I wanna rent from Philly, get stung from Essex and die from Leighton. When man's looking for a high grade, I wanna put a yarn man later. And tell him it's a bad man city. Pass me the herbs, I ain't showing no pity. You thought you were safe and sound where you landed. You buck up on the bandits, now it's all gritty. Rust up, ballin', throw a picky. Any one of them can rise up a thingy. When I roll with my dogs, I show no pity. Batman City, that's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. Yes, sir. City of sin that we're living in. Some fall by the wayside, some can swim. Batman, a bad man, fool is a fool. I ain't following the rules when I do my thing. I got a bad attitude of a bad mentality. Try now I value my bad man family. Every one of them are ever ready like battery. Check out the bad man strategy. Then the coolest man couldn't tackle me. Bad from day till I'm old and great. I'm the wickedest in the business. Don't forget I'm a dumpers dumping the bad man way. I was born with a purpose. None of the moves that I'm making are worthless. Keep it moving cold and green. Bad man city. Me tell them bad man city. That's who want me from me. Tell them bad man city. That's who want me from me. Tell them bad man city. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. The border, the penalty's hefty, we've never been friendly. You're better off stepping off and holding your corner. My city ain't fresh like water. No place for your son or your daughter. Holler at my youngers, they got the numbers. Cash by the hour, not cash by the quarter. Hour, maybe 15. That means head tops could be coming off clean. I don't wanna boast and rock about my ends, but my roadside in the city of dreams. Nightmares, plots, schemes. You never know when you're surrounded by fiends. I get it straight, even a gal let me train to assassinate. Tell them Batman City. That's who want me from me. Tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. That's who want me from me, tell them Batman City. Batman City, Batman City, Batman City, Batman City. So mind that you're talking. Batman City. blood clot sound of play. Jar alone. Lynchon Ticker. Lynchon Ticker Strut Festival winner. No other DJ not sing with me. Got me alone. The boy on a post. Era l'ultimo pezzo per Numa Crew. Noi finiamo la stagione, ci si risente boh a settembre, non si sa quando. Autunno. Stateci bene, buona estate, buone ferie. Un abbraccio a tutti.